È l'autunno 1978. Il giornalista della BBC, nonché disertore comunista, Georgi Markov, è a Londra, precisamente sul Waterloo Bridge. Sta aspettando l'autobus alla fermata. A un certo punto sente una forte puntura alla coscia. Si gira di scatto. Fa appena in tempo a vedere con la coda dell'occhio un uomo che si scusa frettolosamente, prende il proprio ombrello e se ne va. Qualche giorno dopo, però, sale una forte febbre. Inizia addirittura a rimettere sangue e non riesce più a parlare, ha una grande difficoltà. Precipitosamente si presenta in ospedale, ma Markov si spegnerà qualche giorno dopo. Il patologo troverà emorragie in quasi tutti i suoi organi. Vi è anche un segno di puntura, minuscolo, ma preciso, là dove l'aveva colpito l'oggetto metallico, e proprio lì verrà trovata anche una piccola scheggia. I sospetti ricadranno sugli agenti del KGB, i servizi segreti dell'Unione Sovietica, ma mai nessuno verrà processato e tantomeno incarcerato per il cosiddetto omicidio dell'ombrello. In quella scheggia di metallo sono state ritrovate tracce di ricino. Io sono Alessio Fadda. Io sono Raffaele Bonsignori. E questo è Insana Pianta. Benvenuti. Allora, oggi di che pianta parliamo, Alessio? Mi so proprio del ricino. Ah, ecco, allora sei attento. Bene. Allora, il ricino, nome scientifico Ricinus communis, è una pianta della famiglia delle euforbiacee. Partiamo subito da perché si chiama ricino communis. Mentre in realtà communis ci dice ben poco perché significa semplicemente comune, ricinus è la parola latina per zecca ed è dovuto al fatto che i semi di ricino assomigliano alle zecche quando sono rigonfi di sangue. Quindi già il paragone in realtà è un po' inquietante, però semplicemente è una somiglianza morfologica. Allora, le euforbiacee, tu conosci qualche euforbiacea, Alessio? Assolutamente no, aspetto la tua. Allora, le euforbiacee in realtà sono una famiglia molto ampia, a cui appartengono oggi 6500 specie, e abbiamo una grandissima variabilità morfologica delle specie che appartengono a questa famiglia, perché sono originarie sia di ambienti desertici sia di climi temperati. Quindi abbiamo sia quelli che potremmo chiamare cactus, anche se sono euforbiacee e non cactacee, come l'euforbia obesa, che è una pianta di fatto sferica, o la più comune a tutti, euforbia pulcherrima, che è la stella di Natale, di fatto. Una cosa che accomuna tutte le euforbiacee, e lo sperimentiamo appunto con la stella di Natale, è che quando rompiamo una foglia o un ramo di una specie di euforbia, di fatto esce del latte biancastro, che è irritante. In alcuni casi può essere velenoso, ma solitamente è semplicemente irritante per la pelle, per gli occhi, eccetera. In ogni caso non è velenoso, ma sconsiglio a chiunque di toccarsi le mani con il latte di un'euforbia sulle dita, perché di toccarsi gli occhi, perché non è assolutamente un'esperienza piacevole. E mentre ci sono le euforbia, sono tantissime, Ricinus in realtà è un genere a cui appartiene solo la specie Ricinus communis. Un altro parente un po' sconosciuto, ma che ha avuto un'importanza fondamentale in passato, è l'Hevea brasiliensis, l'albero del caucciù, da cui veniva appunto estratto il lattice, da cui poi si ricavava il caucciù. Il ricino da dove viene? Tu sai da dove viene, Alessio? E anche qui mi trovi abbastanza impreparato. Ok. Allora, il ricino viene, tra l'altro, devo dire che il legame poi con quello di cui parlerà Alessio è forse un po' inquietante. Non si capisce bene quale sia la reale di origine in realtà del ricino, ma probabilmente si dice che sia in Eritrea, Etiopia e Somalia. Ah, si ricollega bene, quindi, all'argomento di cui parliamo. Esatto, quindi è molto interessante. In generale, comunque, fascia tropicale, climi caldi. Infatti oggi il ricino è presente in tutto il mondo, perché è stato importato, viene coltivato, eccetera, per usi che poi vedremo, ed è un'erbaccia perenne che appunto in climi caldi raggiunge i 10 metri d'altezza, quindi è molto grande, mentre nei nostri climi più freddi viene coltivato anche come pianta ornamentale e raggiunge solo i 3 metri, perché poi in inverno, in caso di inverni freddi, muore. E che aspetto ha il ricino, giusto per evitare di incappare in una pianta di ricino e nutrircene in un giardino? Allora, ha delle foglie profondamente lobate. Lobata, come dire, è un termine che si usa per descrivere un po' le foglie come quelle degli aceri giapponesi o della cannabis, così tutti abbiamo bene presente cosa voglia dire. Grandi fino a 45 cm, sono foglie molto grosse, molto belle, e porta delle infiorescenze color giallo crema in estate, seguite dai semi in autunno. I semi sono appunto come dei fagioli, ma marmorizzati, hanno proprio sono marroni con delle screziature nere, quindi sono molto particolari, all'interno delle capsule spinose rosse, quindi noi vediamo proprio queste involucri rossi e spinosi che si aprono e rilasciano i semi. Quindi, come dire, è una pianta molto interessante dal punto di vista ornamentale e, come dire, quando la vediamo sicuramente non ci invita a nutrircene, perché è un po' cerca di dircelo disperatamente, un po' come, esatto, i broccoli, di non toccare. Esatto, ma appunto il fatto che probabilmente ha avuto origine in Eritrea, Etiopia e Somalia, insomma, ci dà un po' il là per parlare di quello che è successo. Purtroppo il ricino è abbinato, purtroppo per la pianta naturalmente, è abbinato a uno dei periodi più tristi della nostra storia. Siamo nel novembre 1922. Andiamo a leggere alcuni estratti da un'opera di cui parleremo a breve. Siamo a Gorla, a Milano, e una donna dal nome Teresa Canale, in un avanzato stato interessante, è costretta dai fascisti a ingoiare 150 grammi di olio di ricino. Poi viene perquisita e derubata. Sempre a Milano, a Turbigo, un altro uomo è costretto da 8 fascisti a bere un bicchiere di olio di ricino e per aver detto male del fascio. Ancora a Brescia, l'ex sindaco socialista è costretto dai fasci a ingoiare 0,5 litro di olio di ricino. Non mancano anche altri esempi. A Casette di Crevalcuore i fascisti sono avvinazzati, hanno bevuto e invadono le case di 37 cittadini, svegliando e terrorizzando di notte le famiglie. Gli uomini ricevono bastonate e a forza vengono purgati. Ancora a Roma una sessantina di fascisti costringono a ingoiare abbondanti dosi di olio di ricino a intere famiglie del quartiere del rione di Porta Metronia. E per finire, l'ultimo caso che voglio portare, a Vito Chietino, squadre di fascisti armati mettono a soqquadro il paese, bastonando e distribuendo olio di ricino ai non fascisti e sparando sui fuggiaschi. Dunque, questi esempi dell'impiego dell'olio di ricino sono all'interno dell'opera di un uomo ormai molto famoso sui nostri libri di storia quando parliamo del ventennio. Stiamo parlando appunto di Matteotti, deputato e responsabile guida del Partito Socialista Unitario, il PSU, dal 1922. Matteotti in un anno collega e raccoglie una serie di esempi di atti di violenza dei fascisti. In particolare si occupa poi di far uscire in segreto questo libro dal titolo Un anno di dominazione fascista, e in quest'opera si impegna appunto a denunciare tutti i misfatti del regime, non solo naturalmente quelli violenti, tra l'altro quelli che ho citato, se mi è permesso sottolinearlo, sono quelli meno truculenti, quello meno cruenti, perché ci sono molti altri episodi dove si arriva all'omicidio e alla distruzione di abitati e di interi villaggi dati alle fiamme. Dunque, questo libro, che nasce in forma potremmo dire clandestina, contiene tutti questi esempi. Che cosa faceva il ricino alle persone che lo ricevevano? Dopo parleremo appunto della velenosità. Noi potremmo dire invece rapidamente che costringeva a lancinanti spasmi intestinali e i malcapitati, che erano costretti a ingurgitarlo, si vedevano anche legati a forza i pantaloni, quindi non potevano in alcun modo liberarsi e in una situazione umiliante erano costretti a percorrere le strade, esposti quindi alla visione di tutti. Quindi, insomma, di fatto l'olio di ricino non veniva usato perché è velenoso, ma perché causava appunto una situazione imbarazzante, che in realtà devo dire che personalmente anch'io all'inizio non lo sapevo, nel senso che il fatto che l'olio di ricino venisse usato per umiliare, non per uccidere, ok, chiaramente. Certo, poi naturalmente dipende da che cosa veniva, con cosa veniva mischiato. Ci sono casi in cui assieme all'olio di ricino ci sono anche abbondanti dosi di benzina, quindi causava effetti, sì, potevano portare in alcune circostanze anche la morte. Vale la pena spendere alcune parole su da dove abbiano preso l'idea i fascisti di questo strumento. Facciamo un passo indietro. Parliamo di un grande della letteratura italiana, senza dubbio, Gabriele D'Annunzio, e in particolare della sua esperienza, sua avventura fiumana. Per farla molto breve, dopo la Prima Guerra Mondiale i trattati di Parigi prevedono che l'Italia certamente riceva numerosi territori, ma la Dalmazia, che le è stata promessa dai patti di Londra, viene invece assegnata per intromissione del presidente americano Wilson alla Jugoslavia. E questo causa diverso malcontento, tanto che D'Annunzio parlerà di vittoria mutilata. e anzi decide di rimediare egli stesso. Vi era una città, Fiume, sicuramente la si ricorda dal quinto anno di superiori, dove vi era una prevalenza di abitanti italiani. E D'Annunzio decide quindi di recarsi lì, seguito da una moltitudine di volontari, di legionari, nonché alcune unità dell'esercito italiano che avevano appunto deciso di disertare e di seguirlo. Entra in città, scaccia le forze internazionali che presidiavano questa città libera di fatto e instaura la cosiddetta reggenza del Carnaro. Arriviamo allora al punto di nostro interesse. In città ci sono circa 40.000 persone e 15.000 sono di etnia slava, quindi ostili a un dominio italiano. D'Annunzio fa tenere dei plebisciti col quale appunto si attribuisce il potere e poi chiede al governo di Roma l'annessione della città appunto al resto dell'Italia. L'annessione naturalmente da Roma verrà rifiutata, più che altro perché tutti gli occhi della comunità internazionale erano appunto diretti su di noi, ma per 15 mesi D'Annunzio resta in città e questi plebisciti, che vince con un voto unanime, evidentemente sono stati truccati. E sappiamo che a parte di questo intervento forzoso e forzato, prevede appunto che tutti coloro che erano contrari al nuovo regime venissero sottoposti al appunto il trattamento dell'olio di ricino. Altri punti interessanti, il personale che costituisce un po' l'entourage di D'Annunzio, nonché numerosi dei legionari, dei militi che lo seguono, indossano alcuni capi di vestiario che appunto sono ricollegabili poi al periodo del ventennio. Parliamo infatti del Fez, un copricapo di area araba, ma da tempo entrato nell'esercito italiano, soprattutto i bersaglieri e anche in Libia era stato utilizzato, e ancora una camicia nera, un coltellaccio, bombe a mano e tutto un armamentario che potremmo ricollegare agli arditi. Ribatto allora la domanda, tu prima mi chiedevi di botanica, sai qualcosa sugli arditi? Sugli arditi onestamente posso, no. Posso rimediare su questo. Gli arditi italiani prendono spunto dalle cosiddette truppe d'assalto dell'esercito degli imperi centrali, quindi tedeschi e austriaci. Queste truppe d'assalto prendevano la responsabilità di attaccare le trincee nemiche dopo che queste erano state sottoposte a un severo bombardamento e l'attacco appunto prevedeva l'uso di armi bianche, quindi piccoli gruppi con missioni mirate. Cadorna, sicuramente ricordato per le innumerevoli battaglie dell'Isonzo, alla fine, messo davanti ai fatti, decide di prendere una decisione interessante. Viene convinto infatti a chiedere la traduzione del manualetto creato dagli austriaci per le loro truppe d'assalto e quindi crea anche lui un corpo di truppe speciali italiane, i cosiddetti arditi. Simbolo degli arditi era un gladio accompagnato da alcune foglie di quercia che, come saprai, rappresenta sia la pianta ma anche, a causa dell'etimologia latina, sta a sottintendere il valore, la forza, e anche invece una foglia di alloro, sempre raffigurante invece la gloria, le imprese militari. Curiosità, i nostri simboli nazionali sono la quercia, all'interno appunto dell'emblema dello Stato italiano, la quercia accompagnata però dall'ulivo che invece sottintende la pace. Ma torniamo ai nostri arditi. Gli arditi vengono addestrati nell'estate del 1917 e sono pronti per le prime operazioni. Si tratta di un corpo di soldati d'élite specializzati in quelle missioni estremamente rischiose ma anche gloriose. Infatti la loro paga, il loro armamento e la disciplina a cui erano sottoposti era completamente diversa da quella dei soldati tradizionali. La fanteria di cittadini soldati poteva ammirarli ma non amarli, in quanto dopo che un ardito aveva conquistato con i suoi compagni una trincea poteva ritirarsi in tranquillità nelle retrovie mentre toccava al fantaccino occupare e difendere la posizione. Dunque, questi arditi sono abituati all'uso della violenza, combattono con coltellacci, appunto, con coltelli e bombe a mano. E la parte interessante per noi è che si porteranno dietro anche questa violenza nel loro ritorno alla società civile. Quindi anche quando la guerra sarà finita dobbiamo immaginarci migliaia di uomini che sono abituati a ricevere ordini ma anche a ubbidire e seguire nelle situazioni più pericolose, più grave, a fare uso della violenza e a sapere che la propria vita può essere persa da un momento all'altro. E viene proprio a crearsi una società nel quale la violenza, la legge della forza del più forte, sembra essere l'unico diritto tra le genti. E forse anche per questo riusciamo a capire quello che accade dopo. Tra i provvedimenti usati e introdotti per punire i prigionieri dagli arditi vi era l'utilizzo dell'olio di ricino, che poi sarà ripreso a Fiume, come abbiamo detto da D'Annunzio, e poi ancora durante il ventennio. cosa fa allora questo ricino alle persone? L'abbiamo anticipato, ma magari vuoi dirci qualcosa sulla velenosità? Sì. Allora, come dicevamo prima, appunto, l'olio di ricino non è velenoso, ma appunto è di fatto lassativo. Questo perché i semi di ricino sono l'unica parte velenosa della pianta, contengono acido ricinoleico, che è una sostanza che di fatto altera la mucosa intestinale, causando una fortissima perdita di acqua e di elettroliti, per cui di fatto causa dissenteria. Il principio attivo velenoso per gli animali del ricino è la ricina. La ricina di fatto è una proteina che cosa causa? Causa la morte cellulare perché blocca la sintesi proteica, quindi all'interno della cellula sostanzialmente le impedisce di replicarsi e di svolgere qualsiasi funzione, appunto, che porta poi sia alla vita della cellula sia al funzionamento dell'organismo, ed è anche il motivo per cui colpisce. I sintomi si manifestano dopo ore o giorni dall'assunzione di ricina, perché si devono subire gli effetti del blocco della sintesi proteica, e causa appunto emorragie e collasso di organi. Colpisce il sistema nervoso, ma anche il fegato, i reni, il pancreas, quindi di fatto colpisce tutto l'organismo. Quindi abbiamo capito cos'era successo al giornalista della BBC. Esatto. Cioè, è entrata in circolo la ricina, ci sono voluti alcuni giorni per cui sviluppasse i sintomi e poi morisse, ma di fatto gli è successo quello. La ricina è uno dei veleni più potenti noti, è proprio tossica per ingestione, per inalazione e soprattutto per iniezione. Infatti gli è stata iniettata. Per ingestione è tra virgolette poco tossica, perché per poter morire per ingestione dei semi di ricino bisogna masticarli molto bene. Servono diversi semi per morire, e appunto se non sono masticati adeguatamente passano intatti per l'organismo, vengono espulsi e quindi la ricina. Quindi abbiamo capito che l'olio non è mortale, ma viene espulso col metodo che abbiamo detto dall'organismo. No, nell'olio proprio non è presente la ricina, perché viene eliminata con l'estrazione dell'olio. Il problema della lavorazione del ricino è che nell'olio appunto non è più presente la ricina, ma rimane in quello che viene chiamato panetto, cioè tutta la fibra, tutto il resto che rimane residuo dall'olio. In alcuni casi rimane effettivamente la ricina residua. Questo panetto viene utilizzato come fertilizzante, e in alcuni casi è stato, probabilmente in scarsi casi, viene ancora utilizzato come mangime, e quindi la maggior parte dei casi di avvelenamento da ricino sono proprio registrati in allevamento, perché se il mangime non è trattato adeguatamente per eliminare la ricina, poi gli animali vengono effettivamente eliminati. Ma perché veniva usato l'olio di ricino? Probabilmente perché tutt'oggi il ricino è molto usato in cosmetica, in meccanica, in agricoltura. Per esempio castor oil, perché il ricino si chiama castor bean in inglese. Castor oil è l'olio di ricino, e dietro a molti cosmetici effettivamente si legge castor oil bean, è proprio riportato negli ingredienti, e viene utilizzato molto perché ha un basso costo, è facilmente coltivabile, soprattutto il maggiore produttore coltivatore di ricino e quindi produttore di olio di ricino è l'India, viene coltivato nei paesi caldi proprio per via del clima che necessita per essere coltivato adeguatamente, ed è biodegradabile, quindi di fatto è una sostanza vegetale largamente impiegabile, da cui appunto questo grande accumulo di, tra virgolette, grande accumulo di panetti da riutilizzare, che come fertilizzanti sono ottimi, ma venivano appunto, o vengono anche utilizzati come mangimi. Ah, caspita, molto interessante. Quindi ci sono usi appunto non nocivi del nostro ricino. Vale la pena spendere però ancora una parola sull'utilizzo di questi odori di ricino. Abbiamo parlato degli arditi durante la guerra, durante l'impresa di Fiume. Tra l'altro, D'Annunzio e i suoi legionari saranno sgombrati a cannonate per volontà del governo Giolitti durante la cosiddetta giornata del Natale di Sangue del 1920. Infatti Giolitti alla fine arriva a un accordo con la Jugoslavia, il cosiddetto accordo di Rapallo, anche questo probabilmente molti di voi hanno memorie dal quinto anno di superiore, ma comunque sia, lo rinfreschiamo. Giolitti trova questo accordo per cui ottiene che la città di Fiume venga appunto liberata dalle forze di D'Annunzio in cambio di alcuni riconoscimenti da parte della Jugoslavia, per ritrovare appunto un accordo di qualche tipo. In particolare però vale la pena ricordare come molti arditi sicuramente seguiranno D'Annunzio, ma altri appunto andranno a far parte delle cosiddette squadracce fasciste e porteranno tutto l'armamentario di cui abbiamo parlato, dalle camicie nere ai coltellacci, all'uso delle bombe, a questo appunto afflato passione, a questo appunto essere impregnati di violenza, in una serie di attacchi come quelli che abbiamo citato prima, che possono essere condotti a una vera e propria situazione di guerriglia civile. Parliamo di guerriglia perché sono centinaia di eventi dislocati soprattutto in Italia nord e del centro, dove vengono assaliti luoghi importanti per ad esempio le politiche sindacali, quindi camere del lavoro oppure le leghe bracciantili o le cooperative. I fascisti si mettono di fatto a servizio dei padroni delle grandi aziende agrarie, dei latifondisti. Infatti i proprietari terrieri, gli affittuari, ma anche i commercianti che di fatto soffrivano la competizione e la concorrenza delle cooperative rosse sono senza dubbio grati ai fascisti per il servizio che si rendono loro combattendo appunto le fiammate socialiste che si stavano diffondendo in Italia. Cosa accade però? Da chi sono formate queste squadracce che arrivano di solito di notte con questi furgoni della Fiat, i BL-18, utilizzati tra l'altro durante la Grande Guerra per spostare le truppe? Questi gruppi sono circa di 10-15 persone, sono composti per lo più da reduci, quindi gente che ha fatto la guerra e che ha ancora dentro di sé questa violenza, o anche da giovani studenti che la guerra non avevano visto, ma che questo clima di violenza la società aveva convinto che l'unico modo per diventare uomini fosse davvero quello di utilizzare questi strumenti della violenza, della forza. Questi giovani, in particolare la cosa che mi ha stupito, hanno 16-17 anni o sono anche più piccoli, e le fonti dicono che potevano benissimo insegnare a uomini adulti come usare le pistole, come usare le armi. Qual era l'armamentario appunto di questi gruppi? Ciò che abbiamo visto usare dagli arditi. Quindi avevano sicuramente rivoltelle, mazze di diverso tipo, parliamo anche dei manganelli, questi bastoni nodosi ricoperti a volte di cuoio oppure con la punta in piombo. Tra l'altro, quando queste spedizioni punitive ai luoghi di cui abbiamo parlato prima diventano qualcosa di molto più fitto, prima diciamo che si riconducevano alla spedizione della domenica per divertirsi e si andava a combinare qualche guaio in campagna, quando diventano qualcosa di molto più fitto si iniziano a usare anche fucili o addirittura mitragliatrici montate sui camioncini. Quindi capite che anche gli arditi del popolo, un cosiddetto gruppo che nasce come reazione alle forze fasciste, non ha speranza contro questo tipo di armamentari. E tra gli strumenti utilizzati vi è appunto ancora l'olio di ricino. Che fine fanno Matteotti e D'Annunzio in questo contesto? Matteotti tiene un coraggioso discorso alle Camere, nel quale denuncia appunto i brogli elettorali. I fascisti nella loro lista nazionale avevano stravinto col 65% dei voti, si erano aggiudicati di fatto il 70% dei seggi. E Matteotti però denuncia che anche utilizzando l'olio di ricino avevano convinto di fatto i votanti al votare appunto per i loro blocchi, anche arrivando a sottrarre voti, a distruggere diverse località in cui appunto si tenevano i voti a loro sfavorevoli. E dopo aver tenuto questo discorso, di fatto viene fatto sparire. Non sappiamo se fosse stata espressa volontà quello di eliminarlo o se le numerose coltellate da lui ricevuto siano stato la reazione al fatto di essere stato catturato. Comunque era un uomo alto quasi 2 metri e ha opposto una certa resistenza. Fatto sta che il suo corpo verrà trovato 2 mesi dopo in un burrone vicino Roma. Il quotidiano indipendente Il Mondo, che pubblica la notizia, verrà fatto chiudere nel 26. E Mussolini si prenderà la responsabilità morale dell'accaduto. Il re non prenderà posizioni. Ci sarà la cosiddetta secessione dell'Aventino, vale a dire che molti esponenti politici decisero di non voler avere nulla a che fare con i luoghi del potere e decisero quindi di allontanarsi, come avevano fatto nell'antica Roma i plebei in rivolta contro i patrizi, si erano asserragliati sul Monte Sacro, probabilmente l'Aventino, dando luogo alla cosiddetta secessione dell'Aventino, ma questo non avrà gli effetti sperati. Mussolini si preparerà di fatto a governare da solo e sarà la fine dello Stato liberale come era stato conosciuto fino all'epoca, e le leggi fascistissime poi del 25-26 daranno il là al ventennio di cui abbiamo parlato dall'inizio di questa trasmissione, andando veramente molto per sommi capi. Vale la pena spendere ancora qualche parola su D'Annunzio. Per molti, appunto, è stato fautore di tutta questa retorica e sicuramente le adunate oceaniche, il gridi di guerra, le canzoni utilizzate dagli arditi a Fiume sono state riprese dal fascismo, così come abbiamo detto il modo di comportarsi e gli indumenti utilizzati. Ma c'è da dire che l'esperienza fiumana sicuramente dei punti di differenza con quella che poi sarà la marcia su Roma. È stata difatti, per quanto violenta, una reazione totale a tutto un sistema di convenzioni, tra quale il modo di condurre la diplomazia tradizionale. Quindi ci sono questi punti di differenza, anche un modo di opporsi al socialismo, al tipo di società che, nella quale i giovani non si riconoscevano più. E D'Annunzio, da una parte, appunto, accoglierà quello che è il manifesto degli intellettuali fascisti, sottoscrivendolo, dall'altra però cercherà sempre di sfuggire a questo regime che vuole a tutti i modi guadagnarselo per guadagnare anche il suo seguito. Lui alla secessione dell'Aventino parteciperà, ma terrà poi un convegno a Milano nel quale dirà che avrà l'intenzione di ritirarsi dalla politica in maniera appartata. I suoi legionari però, molti sceglieranno di seguire il fascismo, molti altri però non si ritroveranno in quel sistema dei valori e anzi inizieranno proprio un vero e proprio antifascismo e a costruire un sistema di resistenza. È ormai troppo tardi per opporsi al regime che stava trionfando, ma non troppo tardi per far nascere il seme della resistenza. E vale la pena ancora sottolineare come tutta questa corrente è stata in vario modo interpretata e le letture ancora oggi sono differenti sull'intero periodo. Se leggiamo Salvemini, Gaetano Salvemini, che con le sue lezioni di Harvard vuole appunto mettere sullo stesso piano l'esperienza di Fiume e poi il fascismo, la letteratura di oggi naturalmente rivede alcune posizioni andandolo a sciogliere e soprattutto fare in modo che non ci siano delle etichette rigide. Bisogna capire la fluidità degli esseri umani che, fin tanto che sono sulla pagina di un libro, possono essere appunto collocati in una scatola, ma capire poi le contraddizioni dell'uomo è qualcosa che reputo molto più utile. Mi preme in particolare sottolineare come, ad esempio, D'Annunzio chiamerà schiavi dei padroni tutti quei fascisti che si impegnavano con le loro rappresaglie contro i gruppi socialisti, e in particolare un sindacato, la Federazione dei Lavoratori del Mare, sarà da lui protetta fino alla fine per impedire che entrasse a far parte del sistema dei sindacati fascisti. Quindi questa federazione riuscirà, fin tanto che D'Annunzio potrà offrire la sua protezione, a mantenersi indipendente. Su questo allora mi sembra che abbia raccolto ogni elemento utile. Potremmo arrivare alla conclusione però aggiungendo alcune piccole chicche. Sì, al di là di questo ripasso di storia che almeno per me è stato utilissimo, appunto il Ricino da noi è collegato di fatto al fascismo. Abbiamo imparato anche questa storia sul comunismo, perché insomma tra squadroni fasciste e spie comuniste diciamo che il Ricino ha abbondato. In realtà il Ricino addirittura aveva degli usi nella preistoria, giusto? Sì, assolutamente. Forse vale la pena. Possiamo spendere ancora qualche parola su questo. Se è stato trovato in Sudafrica, nella Border Cave, un residuo di cera sopra alcuni bastoni di legno, e in questo residuo di cera sono state trovate appunto delle tracce di acidi che possono essere collegati al ricino. Quindi era un veleno che conteneva acido ricinoleico, assolutamente, sì. Proprio quella cosa lì, sì. Un veleno che è stato applicato 24.000 anni fa. Sì. Ancora troviamo nell'antico Egitto diversi documenti, diversi manuali che attestano l'uso in medicina del ricino. Parliamo del 1500 a.C. e troviamo trattati di medicina egiziani nei quali, sì, si sostiene che i semi di ricino sono utili sia come lassativo, sia per curare la calvizie, su questo non ci metterei la mano sul fuoco, ma anche per le malattie venere. E in generale si riteneva già dall'antichità che a piccole dosi potesse essere utile per espellere i fluidi nocivi accumulati. E, come abbiamo detto, se fatto nel modo giusto, poteva essere utilizzato, sebbene ci siano appunto degli effetti non auspicabili. E ancora, da Ippocrate a Plinio il Vecchio, la pianta è considerata utile non solo come lassativo, ma anche per curare le vene varicose, i bruciori e soprattutto come antinfiammatorio, quindi un utilizzo a tutto tondo del ricino. La parte interessante quindi è che queste piante in natura noi possiamo individuarle, immagino, come neutre. Loro sono lì, esatto, si difendono dai predatori, sì, e cercano di sopravvivere come qualsiasi altra specie sul pianeta. È l'uomo che decide di volta in volta di farne un uso utile per il prossimo, oppure con lo spregevole uso nei combattimenti, sì, nella guerra. Questo senza dubbio vale la pena ricordarlo. Un'ultima conclusione che, ricollegandoci al discorso generale che abbiamo fatto, sono rimasto molto impressionato, e questo è un commento personale, dal fatto che nelle squadracce fasciste ci fossero ragazzi così, così giovani, convinti che quella violenza fosse quello che serviva loro per diventare uomini. E c'è anche una responsabilità, anzi soprattutto una responsabilità degli adulti in tal senso. Mi premeva leggere, questo per salutarci, alcune righe di Filippo Turati, che assieme a Matteotti aveva creato il PSU, allontanando appunto la parte dei socialisti riformisti. Turati scrive alla Kulishov, sua amante collaboratrice: gli elementi adulti del partito fascista hanno il torto di aver inoculato un odio feroce nell'animo dei giovani, ancora incoscienti, e di non aver saputo frenarne gli eccessi, onde che devesi ritenere gravi su di loro la responsabilità morale del misfatto, che ha destato un senso di viva indignazione in tutta la cittadinanza. Quindi, se è vero che l'utilizzo del ricino, abbiamo visto, derivi fin dalla preistoria anche come arma, senza dubbio abbiamo una responsabilità nell'uso che ne facciamo e nel modo in cui insegniamo ai nostri giovani cosa è giusto e cosa è sbagliato. Avremo sicuramente modo di riparlarne nei prossimi episodi. Con questo direi che possiamo salutarci. Sì. Io aggiungo un'ultimissima cosa, perché abbiamo visto anche nell'antichità appunto usi terapeutici del ricino. E oggi la ricina è studiata come molecola nella ricerca contro il cancro, per uccidere appunto le cellule tumorali. E nonostante in realtà si sia rivelato che la ricina ha un po' troppi effetti collaterali, si stanno studiando i geni che danno sensibilità alla ricina da parte delle cellule per capire appunto come sfruttare questo meccanismo per la cura contro il cancro. Quindi, come dire, una pianta con tanti usi negativi, però neanche tanti positivi. Come sempre dipende da noi. Esatto. Con questo è tutto, io sono Alessio Fadda. Io sono Raffaele Bonsignori. E questa è Insana Pianta. Grazie a tutti per l'ascolto, ci vediamo sabato prossimo con una nuova pianta. Ciao. A presto.